Siamo in linea con Gabriella Grayson, donna di scienza e divulgatrice della materia, che il 24 gennaio sarà in scena al Teatro Odeon con La donna della bomba atomica, uno spettacolo da lei ideato e da lei recitato, in cui Gabriella si cala nei panni di Leona Woods, la scienziata più giovane del famoso progetto Manhattan che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, Gabriella, raccontaci un po' di questa donna e dello spettacolo che tu porti in scena. Sì, dunque, Leona Woods l'ho scoperta dopo diverse indagini sul posto. Sono andata a Los Alamos, sono andata a Santa Fe, Albuquerque, a Chicago, a Princeton. E come volevo raccontare quel periodo che non è mai troppo raccontato, e lo volevo raccontare da un punto di vista diverso, che non ho mai letto da nessuna parte, ho finalmente trovato la mia visione, perché Leona Woods, la fisica più giovane ad aver preso parte al progetto Manhattan, faceva proprio al caso mio. L'ho trovata perché faceva parte del gruppo di Enrico Fermi e così mi sono messa sulle sue tracce e l'ho trovata una ragazza molto talentuosa, si è laureata in fisica a 18 anni, prestissimo, a 23 ha già ottenuto il suo dottorato in fisica e gli hanno proposto l'assunzione ad Hanford il giorno seguente, infatti. E sono partiti per Hanford a fare la prima tappa per poi arrivare alla costruzione della pila atomica con Enrico Fermi, appunto, e a lavorare a Los Alamos. Il percorso di questa ragazza è affascinante dal mio punto di vista, anche perché lei è molto moderna nel modo di parlare, nel modo di porsi davanti alle questioni e ai problemi. È una ragazza di oggi, non è una ragazza di quei tempi. È molto attuale perché risponde, per esempio, alla battuta pronta. Tu non hai mai sentito parlare Marie Curie così o Rosalind Franklin così. E dunque l'ho portata in scena, prima nel libro, ho scritto la sua storia, il suo diario proprio, dal suo punto di vista, quindi in prima persona, e poi in scena, e in scena con molta facilità, perché essendo appunto una ragazza di oggi, io entro ed esco dai suoi panni molto facilmente. Hai detto bene, è una donna di cui non si è parlato, infatti è stato il tuo libro, il libro che tu hai scritto su di lei, che è stato il primo studio vero e proprio sulla sua figura. Sì, esatto, è il primo studio sulla sua figura, ne faccio anche un vanto perché gli americani non l'hanno fatto, per esempio, neanche meno il film di Nolan che racconta Oppenheimer. Ma secondo te perché questo oscurantismo quasi sulla sua figura? Ma non è tanto sulla sua figura quanto in generale sulle donne della scienza, sulle donne della fisica. La fisica, in particolare la fisica nucleare, la fisica quantistica, sono sempre stati gli svaghi degli uomini. Il film di Nolan rappresenta proprio questo, tutti uomini che lavorano a Los Alamos, invece c'erano 1600 scienziate che lavoravano a Los Alamos, non ne ha citata neanche una. Anche la moglie di Oppenheimer la faceva passare per un'alcolizzata che stava a casa a bere e si lamentava del marito che andava a lavorare, coi figli gli stava, e invece era una biologa a Los Alamos. Quindi questo modo di fare è stato sempre sotto gli occhi di tutti e nessuno ha mai detto niente, e la cosa che mi allarma è che anche oggi non hanno detto niente davanti a quel film lì. Il mio è stata la risposta a Oppenheimer, seppur io avessi fatto le ricerche prima, infatti avevo paura che mi rubasse l'idea e invece no, non me l'ha rubata, è rimasto proprio all'interno del cliché più grande e anche del problema più grande che affligge le materie scientifiche, perché poi tutti si lamentano perché le ragazze non si iscrivono a materie STEM, perché non le vedi rappresentate in un film così, per esempio. E dunque il mio è stato un mettere le cose a posto. Non solo su Leona Woods, che lei è una delle tante ma rappresenta la migliore da raccontare, ma anche su Enrico Fermi, che è stato raccontato come una macchietta, per esempio, in quel film lì. Dopo la guerra mondiale Leona si riciclò in una vita normale di professoressa universitaria e tra le varie vicende biografiche sposò un premio Nobel. Allora, se non è che si è riciclata, allora il problema ancora è sempre quello. Dopo il lavoro a Los Alamos, tutti gli uomini, malgrado lei fosse di pari grado ad altri, infatti io le faccio dire, ho fatto le stesse cose di Enrico Fermi, ma con 19 anni di meno e incinta, cioè lei ha anche partorito poco prima del Trinity Test ed è tornato al lavoro dopo 3 giorni, intanto l'autista di Fermi gli ha detto hai superato il record delle contadine italiane per questo primato. Escono da Los Alamos, tutti gli uomini hanno lavori da dirigenti o capi dipartimento, le donne devono andare avanti in ambiente scientifico con borse di studio. Capite che è un problema tutto questo. Lei è stata presa a Princeton, lì è diventato direttore Oppenheimer, e ha cambiato completamente argomento, ha iniziato a occuparsi degli alberi, come dice il suo cognome, era anche la sua passione, mm-hmm. e ha studiato, pubblicato 200 articoli sugli anelli concentrici degli alberi, ha concentrato i suoi studi come forma di studio e lotta ai cambiamenti climatici. Poi per quel che riguarda la sua vita privata, sia durante il progetto Manhattan, si era sposata con John Marshall durante il progetto Manhattan, sì, e con William Libby subito dopo, è stato il suo secondo marito, però diciamo che la cosa che passa, anzi io le faccio dire, come vedete mi tratto bene io quando appunto sì, si è sposata, sì. Perché ha sempre la battuta pronta, è una ragazza che insomma sa cosa vuole, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo in lei. Reciterai la sua parte in questo spettacolo, che sarà un monologo praticamente, sarai da sola in sì, scena. Sì, sono da sola in scena, dura 1 ora e 10, c'è un bellissimo allestimento, insomma non vedo l'ora di venire al Teatro Odeon di Bologna, perché è un posto che mi piace tantissimo, che frequento da spettatrice, insomma mi farà tanto piacere stare con voi. E poi alla fine nel foyer mi fermo a fare firmacopie e dediche sui miei libri, insomma sarà un'occasione per stare a Bologna, perché mi piace come città. Anche perché ricordiamo che questo spettacolo è ricavato dal libro omonimo, La donna della bomba atomica, che tu hai pubblicato l'anno scorso per Mondadori, se non sbaglio. Sì. Vorrei spostarmi un attimo su di te, cioè tu sei stata definita la donna della fisica divulgativa italiana e anche la rockstar della fisica in Italia. Sì. Da dove ti è partito questo intento divulgativo che porta una scienziata, una studiosa come te alla spettacolarizzazione di una materia che per i profani obiettivamente è ostica, è ardua, è difficile? Dunque, io ho sempre avuto la passione di raccontare storie, fin da piccola, e quando uno ha questa passione, che ferma tutti e dice non sai cosa mi è successo oggi, e vuole l'attenzione di tutti finché non finisce, mm-hmm. e questa cosa qui l'ho portata nella mia vita attuale, moderna. Siccome dalla fisica si poteva attingere, si può attingere con storie inedite che nessuno conosce, perché ancora rimane sconosciuta come materia, purtroppo noi abbiamo una formazione umanistica e io non avevo riferimenti, cioè nessuno faceva in televisione o sui giornali quello che ho sempre sognato di fare io, mi sono messa a farlo io, quindi racconto storie attingendo dalla storia della fisica e della scienza, soprattutto attingendo dal XX secolo e in particolare la mia formazione di fisica quantistica, quindi le storie rappresentano sempre quello spaccato lì. Quando io mi sono laureato, ho fatto il mio percorso all'École Polytechnique di Parigi, eccetera, non c'erano i social network e quindi non era possibile emergere facilmente come succede oggi, basta che ti metti a spiegare qualcosa di scienza, emergi sui social network oggi. Sì. E invece ai tempi io volevo creare un qualcosa che ancora oggi non è solcato da nessun altro, che mi portasse a contatto con le persone, e quindi mi sono messa a studiare i più bravi di tutti, i grandi monologhisti, andavo a teatro a vederli, vado tuttora quelli più bravi di me a vederli, e quindi ho trovato poi il mio timbro per raccontare storie, per tenere il palco, perché anche se poi oggi uno è bravo sui social network non sa tenere il palco, è inutile, non sa fare un racconto come i più grandi, ecco, io mi voglio avvicinare a loro. Il 24 gennaio Gabriella Grayson al Teatro Odeon di Bologna alle ore 21 con La donna della bomba atomica. Non vedo l'ora di venire da voi. Anche noi non vediamo l'ora di vedere una scienziata attrice sul palco che racconta appunto le sue storie di studio e di immedesimazione, in questo caso in Leona Woods. Grazie.